Scriverò per te, Cristina, le prime parole d'amore. Proverò per te, Cristina, le stelle più belle dal cielo. La prima carezza che mi hai dato tu l'ho chiusa nel fondo del cuore. E quel dolce bacio che mai non avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più, Cristina, le cose che ho avuto da te. Resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore. La prima carezza che mi hai dato tu l'ho chiusa nel fondo del cuore. E quel dolce bacio che mai non avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più, Cristina, le cose che ho avuto da te. Resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore.